Oggi la cura delle nostre arterie è diventata importantissima perché il benessere delle arterie vuol dire il benessere generale. Vi ricordo che la patologia delle arterie rappresenta la prima causa di morte al mondo, quindi è molto importante. La dieta rappresenta un punto fondamentale. La cura della dieta, l'appropriatezza della dieta è davvero un punto imprescindibile. E, oltretutto, i concetti da rispettare non sono molti e non sono difficili. Primo, evitare grassi animali. I grassi animali sono fonte di colesterolo non perfettamente buono che facilmente si accumula all'interno dei nostri vasi. Secondo, i derivati dei grassi animali, quali burro, quali lardo, eccetera, rappresentano anch'essi un grosso fattore di rischio per le nostre arterie. Terzo, il sale. Il sale va assunto in quantità assolutamente controllate. Il sale è una delle prime cause di ipertensione, quindi controllo dietetico con il sale. Però accanto alle cose che non dobbiamo assumere, tra queste ricordo anche le dosi eccessive di alcol che fanno aumentare il colesterolo, vi ricordo anche quali sono le cose che dobbiamo assumere e sono per esempio il pesce, soprattutto pesce azzurro, pesce dei nostri mari, rappresenta un ricchissimo elemento di omega 3 e altri grassi che favoriscono invece la diminuzione delle placche nelle arterie. Accanto al pesce, ad esempio, la frutta e la verdura rossa, i pomodori, i mirtilli, i lamponi, tutto ciò che contiene fattori antiossidanti rappresenta sicuramente un grosso beneficio per i nostri vasi e per il nostro sistema vascolare. Infine a tutto questo va associato, quello che dico sempre, lo ricordo sempre a Nicoletta, una buona congrua attività fisica, quindi non dieta ma mangiare bene, normale, in modo controllato e muoversi. Anche per la salute delle nostre arterie, professor Chiese, prende via oggi presso l'ospedale San Raffaele la quinta edizione del Congresso Internazionale di Chirurgia Aortica e Anestesia, organizzato da lei, professore, e dal professor Alberto Zangrillo, specialista di chiara fama nei campi della chirurgia vascolare, della cardiochirurgia e della cardioanestesia, sia italiani sia stranieri, informeranno e aggiorneranno la comunità scientifica internazionale e molti studenti delle università sulle più recenti innovazioni tecniche e tecnologiche nel trattamento, con metodiche che sono sempre meno invasive delle malattie a carico dell'aorta toracica, addominale e toraco-addominale, anche delle principali patologie a carico delle valvole cardiache. Professore, ci vuole dare un'anticipazione? Beh, questo è un congresso estremamente importante, la quinta volta che riusciamo a costruire questo congresso qui da noi in Italia e direi è il terzo congresso al mondo tra i congressi privati, cioè non quelli fatti da società dedicate, quindi potete ben immaginare l'importanza. Ci sono specialisti che vengono da tutti i continenti e specialisti che portano le novità assolute in tema di ricerca in tema di applicazione clinica, quindi sono veramente una fonte di notizie, una fonte di comunicazione veramente meravigliosa. Offriamo una immagine di tutto quello che è di nuovo nel mondo della terapia delle malattie vascolari veramente importante. Questo ci onoriamo di farlo al San Raffaele, che rappresenta sempre un punto assolutamente di eccellenza per la cura di queste malattie. Dall'uso delle cellule staminali per riparazione delle arterie del cuore, si va all'uso della chirurgia aperta per la cura delle malattie dell'aorta, all'uso di questi nuovissimi materiali endovascolari, cioè protesi che vengono posizionate senza aprire l'addome nel torace, e quindi si va a tutta la parte di robotica che ci aiuta per giungere all'organo in modo atraumatico e poterlo trattare. Quindi, professore, anche un'attenzione particolare alle malattie vascolari su base genetica? Certo. Certo, malattie vascolari su base genetica rappresentano una fetta non enorme, ma una fetta importante, perché sono malattie molto gravi. Quindi la cura genetica della malattia vascolare, che deve essere fatta in una situazione di prenatale, capisce, rappresenta sicuramente una novità e una spinta di ricerca veramente importante. Grazie professor Chiesa, buon congresso. Grazie Nicoletta, a presto, grazie.